c'è nessuna sassa di oggi? Ora! Attenzione, Ettore! Gian Maria! Lo sei! Oui, ciao Gian Maria, buonasera, Franco, vai! Non ti ho capito, no! Non mi ascolti bene, Gian Maria? E adesso ti ho sentito bene! Capo, sono in macchina qua, dai! Mi all'incrocio alla rotonda della Bretella! Ma non è perfetta però, Non è perfetta, no. Io mi sto avvicinando a te adesso, dai! Ah, ho capito. E a me bene mi senti. Come? E a me bene mi senti. E anche forte, un bel forte. E allora va bene, dai. Allora va bene. Cosa stai combinando? Niente, sono in macchina. Andando a casa. No, all'alghero. Ah. Freddo ce ne sì? Ma mica tanto, Sì, fuori magari. Un po' di vento c'è, però freddo freddo no. Insomma, andate là, già si può uscire là. Sì, abbastanza. Ok. Vabbè, dai, buon proseguimento, ci sentiamo che sto combinando qualcosa al computer. Ok, ciao Gian Maria, ce la riascoltiamo. A più tardi. Ok, ciao.